terra, la guerra avrai. Ti guardo e penso che faccia di merda hai. Se mi odio mi chiedo che problema hai. Forse perché scopo una modella della Rai. Quando canti sembra che hai delle cesoie in culo. Impazziscono per me tipo Jason Derulo. Non dirlo a me come si vive, so che è duro. Sono un vampiro, giro quando è notte buio. Quale Mustang? Guido una smart. Giro coi piumatti, fumo fino all'asma. Sta vita pressa, misura in Pascal. Sogni in testa, euro in tasca. Là qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Vivo in modo mio, sono io. Riempio i fogli, inseguo i sogni. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Uno un happy EP, okay. Due social mixtape, okay. Tre per sempre, okay. Quattro Travis uno, okay. Cinque radio zero e ora sei, ok. No, non è cambiato niente, tu ancora non sei nessuno. Io ho fatto qualche passo avanti in questi quattro anni. Secondo me tu non ti senti bene quando parli. Per essere così deficienti serve una laurea. Sto nel processo creativo, silenzio in aura. Gli angeli veri sono donne, non hanno l'aureola. Indossano capi da minimo 1000 euro, bra. Epoca moderna conta solo se sei ricco qua. Fossi nato 12-10 sarei Caligola. Prendo un volo intercontinentale. Non penso a chi sono ma a chi voglio diventare. Su di me quante storie hai da inventare. Sono in strada a doppio taglio wearing invernale. Vivo in modo mio. Sono io. Riempio i fogli, inseguo i sogni. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori. Come va qui fuori, combatti o muori.